Capitolo 18. Il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. Abramo alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano davanti a lui. Come li ebbe visti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda. Si prostrò fino a terra e disse: «Ti prego, mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre, senza fermarti dal tuo servo. Lasciate che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere del pane e vi ristorerete. Poi continuerete il vostro cammino, poiché è per questo che siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fai pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e le disse: «Prendi subito tre misure di fior di farina, impastala e fai delle focacce». Poi Abramo corse alla mandria, prese un vitello tenero e buono e lo diede a un suo servo, il quale si affrettò a prepararlo. Prese del burro, del latte e il vitello che era stato preparato e li pose davanti a loro. Egli se ne stette in piedi presso di loro, sotto l'albero, e quelli mangiarono. Poi essi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Ed egli rispose: «È là, nella tenda». E l'altro: «Tornerò certamente da te fra un anno. Allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Sara, intanto, stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, che era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Sara rise dentro di sé, dicendo: «Vecchia come sono, dovrei avere tali piaceri. Anche il mio Signore è vecchio». Il Signore disse ad Abramo: «Perché mai ha riso Sara, dicendo: partorirei io per davvero, vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò, dicendo: «Non ho riso», perché ebbe paura. Ma egli disse: «Invece hai riso». Poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma, e Abramo andò con loro per congedarli. Il Signore disse: «Dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare, dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso». Il Signore disse: «Siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me. E se così non è, lo saprò». Quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Abramo gli si avvicinò e disse: «Farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? Forse ci sono 50 giusti nella città. Davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? Non sia mai che tu faccia una cosa simile, far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio. Non sia mai. Il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia?» Il Signore disse: «Se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, perdonerò a tutto il luogo per amor di loro». Abramo riprese e disse: «Ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. Forse a quei 50 giusti ne mancheranno 5. Distruggerai tutta la città per 5 di meno. E il Signore: se ve ne trovo 45, non la distruggerò. Abramo continuò a parlargli e disse: forse se ne troveranno 40. E il Signore: non lo farò per amore dei 40. Abramo disse: non si adiri il Signore, e io parlerò. Forse se ne troveranno 30. E il Signore: non lo farò se ne trovo 30. Abramo disse: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore. Forse se ne troveranno 20. E il Signore: non la distruggerò per amore di 20. Abramo disse: non si adiri il Signore, e io parlerò ancora questa volta soltanto. Forse se ne troveranno 10. E il Signore: non la distruggerò per amore dei 10. Quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò. E Abramo ritornò alla sua abitazione.